Uyelele mama, uyelele mama siya chavula tina. Uyelele mama, uyelele mama. Oh yeah. Uyelele mama, uyelele mama. Zimbabwe. Uyelele mama, uyelele mama. Oh yeah. Uyelele mama, uyelele mama. Oh Zambia. Uyelele mama, uyelele mama. Oh yeah. Uyelele mama, uyelele mama. Malawi. Uyelele mama, uyelele mama. Oh yeah. Uyelele mama, uyelele mama. Mozambique. Uyelele mama, uyelele mama. Oh yeah. Angola, helele mama, helele mama. Oh yeah, helele mama, helele mama. Botswana, helele mama, helele mama. Oh yeah, helele mama, helele mama. Lesotho, helele mama, helele mama. Oh yeah, helele mama, helele mama. Swaziland, helele mama, helele mama. Oh yeah, helele mama, helele mama. South Africa, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele helele helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele helele helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Wo Morocco, helele mama, helele mama. Wo Somalia, helele mama, helele mama. Wo Ghana, helele mama, helele mama. Wo Nigeria, helele mama, helele mama. Wo Gambia, helele mama, helele mama. Wo Sierra Leone, helele mama, helele mama. Wo Kipiti, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Wo Africa, helele mama, helele mama. Wo Zimbabwe, helele mama, helele mama. Wo Zimbabwe, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele helele helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Siyajabula thina, helele helele helele mama. Siyajabula thina, helele mama, helele mama. Ciao a tutte e tutti ed rieccoci a Uru, la trasmissione che parla di Africa, che vi ricordo va in onda adesso alle 21.30 circa del venerdì sera e in replica, se non potete ascoltarci oggi, la domenica alle 23 o il lunedì mattina alle 8.30. Vi ricordo anche che dal sito wombat.noblogs.org potete ascoltare o scaricare dal menu podcast tutte le puntate precedenti di questa trasmissione e di tutte le altre. E seguiteci anche su Twitter, quello della radio è Radio Wombat Fi, mentre quello di Uru è Uru-RW di Radio Wombat. Sì, in streaming Radio Wombat, quindi Uru in streaming su wombat.blogs.org/streaming/ e in AM, onde medie 1359 nella zona di Firenze, sicuramente nella zona di Firenze Nord, ma insomma anche un po' più in là, magari scrivendo alla casella di posta elettronica della radio potete anche indicarci se e dove e come sentite la radio Radio Wombat via etere, la casella di posta elettronica è postawombat@insiberia.net. Sul sito della radio anche le informazioni sulle trasmissioni, sul palinsesto è un po' cambiato recentemente, anche se gli orari duro rimangono gli stessi oramai da diverso tempo, è puntata 73 e ancora un'altra volta, ma perché proprio questo piccolo paese di 100.000 km quadrati, quindi un terzo dell'Italia e di 8 milioni di abitanti, ha prodotto e produce tuttora suoni, musicisti, cultura in senso generale e in continuazione. Parliamo del Benin e questa volta parliamo dei maestri, così vengono chiamati, dei master musicians, dei maestri de musique del Benin. Fra i tanti ne abbiamo selezionati per questa puntata 4 e il primo è appunto Antoine Dwagbé, che suona un particolare ritmo, l'afro cavace. Tra l'altro è da sottolineare che abbiamo selezionato quattro musicisti che, dei quali ognuno ha un tipo, esegue un tipo di musica diversa, proprio per sottolineare la vastità, l'ampiezza della scena musicale beninese. E qui lo si andrà a sentire un infuso, un melting di Akabaya, soul, cavacia, funk, afrobeat, afrolatin, tutti i suoni che vengono a sua volta mescolati con i ritmi tradizionali del Benin, in particolare i ritmi voodoo. Quindi sono proprio suoni distintamente del Benin. E appunto, come dicevamo precedentemente, il primo che vi facciamo ascoltare è Antoine Tokakbe, l'autore, il principale esponente di quello che possiamo chiamare l'afro cavacia. Ricordiamo che la cavacia è un tipo di ritmo che è nato in Zaire, in Kenya, e è suonato in particolar modo con le percussioni, e tra l'altro prende il nome, o meglio è stato creato, è nato durante i viaggi in treno questi lunghissimi viaggi in treno che partivano appunto dallo Zaire, Congo, diciamo dal Congo, per andare nei paesi, nelle nazioni, negli stati vicini, come appunto il Benin. E quindi prende proprio questo nuovo ritmo musicale basato sotto certi aspetti sul suono del treno, tant'è che la cavacia a volte è chiamata come machine ya kauha, che in Lingala significa the engine of kauha, cioè lo steam, cioè il motore del kauha. Tenendo presente appunto che Kauha è un sobborgo di Kinshasa, dove ha sede il quartier generale di questa famosa compagnia di treni, questa famosa compagnia ferroviaria, l'Onatra. E appunto Antoine Tokakbe è uno dei principali strumenti di questa afrocavacia, e anche lui deve un certo tributo all'orchestra Poliritmo, che oggi non è in scaletta, ma che vi abbiamo fatto ascoltare le altre due volte di cui abbiamo, le altre due puntate di cui abbiamo parlato del Benin. E quindi l'orchestra Poliritmo non solo ha composto e registrato centinaia e centinaia di canzoni, ma ha anche promosso, ha avuto il tempo per organizzare e registrare con altri artisti, fra cui appunto Antoine Tokakbe, il ministro du diavolo, il ministro del diavolo. Tokakbe, di tutti quelli dei quattro che facciamo ascoltare oggi, è meno conosciuto anche nello stesso Benin, ma la qualità e la potenza delle sue composizioni lo rendono una figura tra le più importanti della musica beninese. Ha creato appunto questo suo stile particolare chiamato viene chiamato afrocavacia, una miscela di rumba congolese, suoni latini e chiaramente ritmi tradizionali voodoo. E tra l'altro aveva creato anche una propria etichetta personale di dischi in vinile, l'edition de Gbe Antoine, e tra l'altro sono difficilmente reperibili adesso, ma a parte alcune compilation di altre etichette recenti, i suoi dischi, i suoi pezzi sono ancora tutti in vinile. Di Antoine Tokakbe ci ascoltiamo Kofi Tokakbe de Towe. Masa hodere numio, kuita kwa bende toe, masa hodere. cucra pour décéder. Vite au combat de toi, ma soeur, on est des noumions. Ma soeur, on est des noumions. Ma soeur, quoi qu'on est noumions. Vite au combat de toi, ma soeur, on est des noumions. Ma soeur, on est des noumions. Ma soeur, quoi qu'on est noumions. Vite au combat de toi, ma soeur, on est des noumions. A comment me on parle, au cran vous possédez. A comment me on parle, au cran d'y a vous bassédez. A comment me on parle, Bukra da yini sede ha, akumo me umboro be. Bukra pango sede, anywa nukatoe. Wewe nui yino nidela, anywa nuno doe. Wewe nui yino nidela, anywa nufamitoe. Wewe nui yino nidela, anywa nuno doe. Wewe nui yino nidela. Usuwa moto jero be, yena kwaku ude. Usuwa ona hilo be, yena kwaku ude. Uwa moto jero be, yena foga udu. Sika tuni mosra odere numio mosra odere numio vita ko bene toe masa odere numio mosra odere numio masa odere numio vita ko bene toe masa odere numio akumo me un paro pe bukra fu de sedea vita ko bene toe masa odere numio mosra odere numio masa odere numio vita ko bene toe masa odere settimane fa all'Aia in Olanda si è aperto un processo storico. È Esther Chiobel, Victoria Bera, Blessing e Avo e Chariti Levula sono quattro delle vedove dei 9 attivisti del Movimento per la Sopravvivenza del Popolo Ogoni, il MOSOP, giustiziati nel novembre del 1995 dalle autorità nigeriane. Queste donne hanno portato in tribunale all'AIA la multinazionale Shell, accusata di molteplici violazioni dei diritti umani e di aver svolto un ruolo attivo nella morte dei loro mariti. All'epoca la Nigeria era sotto la dittatura di Sani Abacha, particolarmente spietata, e gli Ogoni, una delle popolazioni del delta del Niger, la regione del paese purtroppo per loro più ricca di petrolio, avevano inscenato varie proteste contro la corporation anglo-olandese. In decenni di attività la Shell aveva infatti inquinato in maniera estesa, senza mai procedere ad alcuna bonifica, il territorio degli Ogoni. Un fatto confermato anche nel 2011 da un rapporto dell'UNEP, l'Agenzia dell'ONU per l'Ambiente, che stimava ci sarebbero voluti almeno 30 anni e una spesa iniziale di oltre $1 miliardo per ripulire l'Ogoniland. Va ricordato che gli impatti negativi dell'estrazione petrolifera sono visibili in tutto il delta del Niger, dove oltre alla Shell è presente anche l'italiana Eni, che anche lei sta subendo un processo, questo a Milano. Tra i 9 membri del MOSUP trucidati c'era anche il leader dell'organizzazione, il drammaturgo e poeta Ken Saro-Wiwa. Le imputazioni nei loro confronti erano palesemente inventate. Nonostante una forte mobilitazione a livello mondiale, i 9 esponenti furono condannati a morte e giustiziati. Ora i giudici dell'AIA sono chiamati a decidere se la Shell possa essere ritenuta complice del governo Abacha nell'uccisione dei 9 e nella sanguinosa repressione contro gli Ogoni. Come dimostra un dettagliato rapporto, nella prima metà degli anni 90 le forze di sicurezza nigeriane avrebbero ucciso, violentato e torturato centinaia di Ogoni per reprimere la loro opposizione alle attività della compagnia petrolifera. L'accusa nel processo sostiene che in quegli anni la Shell abbia fornito supporto logistico all'esercito di Abuja e almeno in un'occasione abbia pagato di tasca sua un alto ufficiale noto per numerose violazioni dei diritti umani. Documenti in possesso dell'accusa rivelerebbero che nel marzo 1994 la compagnia ha effettuato un pagamento ad una unità governativa speciale creata apposta per ristabilire l'ordine, così era scritto, nell'Ogoniland. E il secondo di questi maestri de musique che vi facciamo ascoltare appunto il Rego e Ses Commandos, il Rego e i suoi e Commandos, è il gruppo che l'accompagna, che si caratterizza per questo funk molto particolare, che appunto viene chiamato proprio da quella, la principale città del Benin, Cotonou, appunto Cotonou Funk, e è appunto un pioniere del funk e del soul beninese, Théophile Dorego, noto appunto come El Rego. Ha iniziato la sua carriera in Burkina Faso, membro di un'orchestra, l'Harmonie Voltaïque, ricordiamo appunto il ruolo particolare svolgono, che hanno svolto queste orchestre nell'area del delta del Niger, e ritorna in Benin nel 1961 e forma appunto la sua prima band, la Filda, e poi la band definitiva, appunto i Commandos. Siamo a metà degli anni 60 e mescola rhythm and blues, soul, funk, con tracce di rumba, percussioni, chitarra e un sacco di suoni tratti dalla fisarmonia, quindi una linea di basso di spessore e ritmi tribali tradizionali per formare un modello musicale che poi avrebbe ispirato vari gruppi africani negli anni successivi. 8 45 CD, 4 LP, 4 album a cassette e naturalmente un numero sconsiderato, innumerevole di concerti, specialmente nei club di Cotonou per un periodo di oltre 50 anni. E questo è appunto il brano che facciamo ascoltare, il primo brano considerato il primo brano afro soul funk del Benin, ed è registrato con il supporto di un cantante ghanese, Eddie Black Power, appunto per sottolineare le radici appunto di questo cantante ghanese, e anche si capisce anche questa collaborazione senza frontiere, diciamo, fra i vari cantanti esecutori di questa specifica zona dell'Africa. Questa canzone Feeling You Got, con un riff di fisarmonica che non sorprendeva nessuno in Benin, perché era, come dire, naturale all'epoca in Benin immettere questi suoni di strumenti particolari all'interno di percussioni, batterie, insomma. E appunto vi facciamo ascoltare Rego e Ses Commandos con Feeling You Got. Yeah. Parliamo adesso di un animale veramente particolare, e cioè i pangolini. I pangolini, che sono mammiferi, e sono a metà tra un formichiere e un armadillo, e sono ricoperti di scaglie, e sono in pericolo naturalmente. Sono infatti considerati i mammiferi più contrabbandati al mondo. Questo piccolo animale è sotto la pressione costante e purtroppo crescente dei contrabbandieri, sia per la sua carne che per le scaglie, per derivarne medicine e addirittura dalle scaglie fare ornamenti. Tanto che da qualche anno tale commercio illegale è sotto i riflettori dell'Agenzia Investigativa per l'Ambiente e la specie è da tempo considerata in pericolo. Tale commercio illegale naturalmente interessa soprattutto l'Asia e l'Africa. È stato certificato che negli ultimi 10-15 anni oltre 1 milione di pangolini sono stati commerciati illegalmente in territori del continente asiatico, ma la richiesta negli ultimi anni si è spostata in Africa, dove questi piccoli mammiferi sono cacciati soprattutto in Tanzania, Nigeria, Camerun e Uganda. Intanto continuano i sequestri. Qualche giorno fa l'Uganda ha sequestrato una spedizione di contrabbando sia d'avorio che di pangolino per un valore di mercato stimato in oltre 8 milioni di dollari, il più grosso sequestro di pangolini, diciamo, illegali fatto finora. Questi pangolini e anche l'avorio provenivano dalla vicina Repubblica Democratica del Congo e sono passati attraverso il Sudan e sul Sudan prima di entrare in Uganda. Le zanne di elefanti e le squame di pangolino erano nascoste in tronchi scavati e imballati. E il prossimo master of music, maestro de musique, che vi facciamo ascoltare è Nonia Spero, le roi della cabagie moderne. La cabagie è una danza molto popolare che viene ballata dalle persone durante i funerali, matrimoni o un qualsiasi altro incontro di socialità e di festa, nonostante che sia una danza che nasce nelle zone rurali del Benin, anche i gruppi musicali delle città attualmente amano, piace, incorporano questo ritmo nella loro musica. A differenza di altre danze tradizionali che sono riservate a uno specifico gruppo di persone, magari di una certa fascia d'età o di religione, la cabagie è una danza che viene praticata da tutti, bambini, donne, uomini, bisnonni, bisnonne, chiunque è benvenuto a ballare questo tipo di danza, e infatti significa un qualcosa come per tutti. Tra l'altro, se anche gli stranieri nel momento in cui partecipano a questi incontri, a queste feste in cui si balla questa danza, vengono invitati, anzi vengono sotto certi aspetti obbligati a ballare la cabagie. Nonostante una prima impressione, lo sfondo di questa danza non è che è così divertente, perché è nata durante i periodi duri della guerra, dell'oppressione coloniale, in cui il popolo beninese combatteva per la propria libertà, e quindi per addestrare e incoraggiare i guerrieri venivano praticate queste varie danze, a cui in particolare la cabagie, ma altre come per esempio la tricpui. Poi successivamente, quando nella regione è cominciato ad esserci un relativo periodo di pace, questa danza, seppur seria, si trasforma in diventa parte delle feste e di momenti di socialità, e si evolve fino ad essere conosciuta, ad essere come quella di oggi. E appunto Nonna Spedro considerato appunto l'Eroi della Gavagi moderna, nonostante abbia eccelso, abbia utilizzato molti stili musicali, quello stile della Cabaja è quello a cui viene associato in particolare. Sì, questa danza appunto si basa su tre percussioni, ognuna con un tono diverso, e come dicevo precedente, nata nelle zone rurali del Benin, in particolare una regione chiamata Le Mono, situata proprio nel centro del Benin, è appunto il luogo di nascita di nonna Spetro, che l'ha adottata e chiaramente modernizzata a metà degli anni 60, definendola la Cabaja moderna. Viene soprannominato l'Eroi dei ritmi a Cabaci. Di lui vi facciamo ascoltare la musica En Verite, la musica proprio scritto e pronunciato anche in italiano. Non aspetto il ses d'agis. Quand certains disaient que la musique ne nourrit pas son âme, mon verre n'est pas grand, mais depuis 15 ans, je bois toujours dans mon verre. La musique. Il prossimo pezzo che andiamo ad ascoltare è di Honoré Abolonto, che ha iniziato la sua carriera circa 40 anni fa come percussionista. Soprannominato Tumba, è uno dei compositori più prolifici del Benin. In una intervista dice: stavo componendo così tante canzoni che alcuni produttori invece di soldi mi pagavano con le merci. Mi ricordo di aver ricevuto una torcia in cambio di una canzone una volta. Quindi compositore di musica e uno degli artisti di maggiore successo del Benin, con l'album senza titolo e quindi numerato in 143, che è stato registrato per l'etichetta musicale Satel alla fine degli anni 70. In quest'album lui è accompagnato dai Black Santiago, una band guidata da uno dei più grandi trombettisti beninesi, Ignaz de Souza, veramente una leggenda, con la quale ha registrato questa traccia Afrobeat che vi facciamo ascoltare. Naturalmente Abolonto ha affiancato alcune delle band più conosciute del Benin, come per esempio l'immancabile Orchestra Poliritmo e le Commandos che abbiamo ascoltato prima con il Rego. Quindi di Honoré Abolonto ci ascoltiamo Na Mi Do Ge Ue Nu. Video, ouais, son jaïbo, quoi, ma voix des timbres, mais les noms, quoi, avant. la photo monte ouais et ça fonne ton métier et y a vivre nous si mais nous c'est quoi aller na vivre na si mais nous ben mais ça est vrai papa nous dans la santé l'ouye mon mingi loué ça est vrai na et nous dans la santé n'y est mon mingi loué bébé poué ouais non y vit non y est mon mingi ni non mon La maître du poyan. Maître du mien, non, ça va, ça va, ça va. Et donc, les soirs, nous prenons la maître du podéa. Eh, vous voulez donc? Vicky! Prenez! Abdul Aziz Muhammad, 26 anni, è un ragazzo sudanese che ha ricevuto il Martin Sennars Award, un riconoscimento assegnato ai difensori dei diritti umani per aver descritto il trattamento inumano dell'Australia nei confronti dei richiedenti asilo. E Abdul Aziz, fuggito dalle violenze nel Darfur, ha cercato rifugio in Australia. Le autorità di Canberra lo hanno rinchiuso però nell'isola di Manus. Per più di 6 anni ha inviato migliaia di messaggi WhatsApp a una giornalista che ha raccontato la sua storia in un podcast. E questo premio particolare ha riconosciuto la sua straordinaria tenacia e coraggio, dove tra l'altro in questi messaggi WhatsApp Muhammad ha spiegato come sia stato sfogliato il suo nome e gli sia stata assegnata la sigla QNQ002 e che tra l'altro i prigionieri in Australia, che ricordiamo sostanzialmente è composta tutta da immigrati, i prigionieri sono stati alimentati attraverso una rete e trattati peggio degli animali. Progettata per scoraggiare i rifugiati a raggiungere l'Australia via mare, Manus Island si trova al largo di Papua Nuova Guinea, un'altra isola del Pacifico, Nauru, è stata anch'essa usata come centro di detenzione in mare aperto, e il primo ministro australiano ha appena annunciato che riaprirà la Christmas Island, l'isola di Natale, aggiungendo a queste due isole un terzo campo di concentramento, perché questo è il termine più giusto per chiamare queste, questi luoghi, per appunto scoraggiare i rifugiati da raggiungere l'Australia. E vi ricordo che siete all'ascolto di Uru, la trasmissione che parla di Africa, e che la trasmissione va in onda in diretta il venerdì alle 21.30 e le repliche, se vi siete persi una parte della trasmissione, sono la domenica alle 23 e il lunedì alle 8.30 del mattino. Potete ascoltare lo streaming su wombat.noblogs.org, ma anche in AM, quindi con la radio della macchina, o se avete questa possibilità anche nel telefonino, diciamo, in AM sul 1359. Per parlare con la radio, comunicare con la radio, potete scrivere a postawombat@insiberia.net. Sul sito della radio potete sentire tutti i podcast delle puntate, delle trasmissioni, ma abbiamo aggiunto una nuova possibilità che si chiama container, che sono presentazioni di libri oppure cose che ci sono sembrate e ci sembreranno interessanti da ascoltare. Non solo container, Radio Bomba si è aggiunto un'ulteriore rubrica, carta canta, ma più in generale andate nella pagina del palinsesto, in cui sono elencate giorno per giorno le varie trasmissioni e le relative repliche. E proseguiamo la nostra rassegna, anzi riproponiamo uno dei quattro, in questo caso è il Rego, il Ses Commandos. Il pezzo si intitola Enamian Nuku. Weya non Enamian Nuku, Weya wo Enamian Nuku. Yeah. izomini we ya we na myanu kunu menyi kendo mito abwe se do nu bodie do ya e do Oggi parliamo più spesso di altre trasmissioni di fauna, di animali. Leopardo nero, un animale quasi leggendario del quale ultimamente sono tornate ad esserci delle immagini recenti. Un leopardo nero è un esemplare estremamente raro, un felino la cui pelliccia nera maculata è appunto il risultato del melanismo, una mutazione genetica sostanzialmente al contrario dell'albinismo. E il fotografo Will Barrand Lucas è riuscito a immortalare questa rarissima specie in Kenya all'interno della riserva naturale Laikipia Wilderness Camp. Teniamo presente, l'ultima volta era stato avvistato un leopardo nero, era stato nel 1909 in Etiopia, e appunto questo fotografo britannico, dopo aver ricevuto munizione dell'animale, era stato notato nella riserva keniana, si è recato sul posto una miriade di macchine fotografiche a scatto automatico e nell'arco di 2 mesi è riuscito a immortalare e filmare questo esemplare unico, questa specie unica. E una scoperta, tra l'altro, è stata confermata anche pochi giorni fa sulla rivista African Journal of Ecology. E questo nel video, oltre nelle foto, questo giovane leopardo, anzi leoparda di sesso femminile, è accompagnata da un altro leopardo più grande con i colori abituali. E questa appunto è la prova anche del fatto che il melanismo non ha alcuna influenza sull'integrazione degli animali, a differenza degli uomini, magari della razza umana purtroppo in molte occasioni. E, si pensa che il melanismo si vive in circa il 10% dei leopardi nel mondo, ma sono tutti, o almeno fino ad ora, non si era tutti concentrati nel sud-est asiatico. Per questo appunto è stato veramente un evento storico per il continente africano la scoperta di questo dell'esistenza di un leopardo femmina nero. E ritorniamo a un altro artista che avevamo presentato precedentemente, Honoria Volonto, questa volta accompagnato dall'orchestra Poliritmo, e vi facciamo ascoltare questo afrobeat beninese. Il titolo è Tin Lin Non. Oh!

Gogoro is no good. If you drink gogoro, make you not forget your work. Remember your begin for house, waiting there for chop. Today there they drink tire. E finisce qui questa puntata. Ci sentiamo prossimamente con Uru, suoni, musica dal continente africano e qualche notizia. Ciao a tutte e tutti, alla prossima. Ciao ciao. Sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, sia chavu latina, oh Ethiopia, oh Uganda, oh Kenya, oh Tanzania, oh Ghana, oh Nigeria, sia chavu latina, sia chavu latina. Sia chavu latina, sia chavu latina, helele mama, helele mama.